Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno, bentrovati. Riprendiamo subito questa puntata dai temi di sostenibilità, che è uno degli argomenti ovviamente preferiti per definizione di Ferry Boat. Lo facciamo però tentando, con l'aiuto del gruppo di lavoro sul CSR coordinato da Pietro Guindani e da Marina Migliorato, che è un gruppo di lavoro di Confindustria, di per una volta capire un po' di più che cosa vuol dire, e quindi puntiamo a descrivere, a farci raccontare da Marina Migliorato, che è con noi, gli indici di sostenibilità. Sostenibili siamo noi, le piccole e medie. Confindustria fa un po' d'ordine e spiega quali sono i criteri, anzi gli indici, che sanciscono la sostenibilità nei processi di impresa. Anche Sisco ha i suoi ambasciatori sparsi nelle sedi tecnologiche del mondo, con una missione a senso unico: ridurre le proprie emissioni. Un esercito di Green Ambassador. I futuri giovani imprenditori nisseni promettono bene, anzi, responsabile, e parlano di autoimprenditorialità. Marina Migliorato è con noi. Buongiorno, Marina Migliorato. Buongiorno a tutti. Io spero che tu condivida. A me piace molto questa frase, che poi mi autocito, lo so, però non è elegante, ma Confindustria fa un po' d'ordine, perché in effetti di sostenibilità si parla tantissimo ormai all'ordine del giorno, ma esattamente i confini di questo concetto non sono così chiari. No, non sono così chiari, ma le piccole e medie imprese italiane, soprattutto, non solo le grandi aziende italiane, fanno moltissima sostenibilità. L'idea per sostenibilità vuol dire impegnarsi a tutela dell'ambiente, implementare la propria efficienza energetica, vuol dire rapporti col territorio, con la comunità, con i propri dipendenti, con le persone che stanno intorno all'impresa, vuol dire la trasparenza, vuol dire qualità. Alla fine le piccole e medie imprese italiane fanno già tantissima qualità e moltissima sostenibilità. Il punto vero è che lo fanno in modo inconsapevole. Quindi la Confindustria, nell'ambito della Commissione Cultura e del centenario della Confindustria, ha pensato potesse essere una buona idea mettere su questo gruppo di lavoro, dove le grandi imprese hanno fatto un po' di mentorship alle piccole e medie imprese, per fornire a loro uno strumento operativo perché possano rendicontare le cose che già molte piccole e medie imprese fanno in Italia. Quindi vuol dire, anche perché poi noi lo sappiamo, noi come dire, assuefatti al concetto, che sostenibilità vuol dire risparmio, vuol dire anche business che si aprono, quindi non è solo una questione, come dire, culturale. Questo vuol dire indici di sostenibilità che hanno un senso anche economico per le imprese, per le piccole e medie, di apertura di dritte vere e proprie. Assolutamente sì, ma la sostenibilità è una parte del vantaggio competitivo delle imprese, soprattutto delle imprese italiane, perché noi vinciamo sui mercati internazionali, vince la grande azienda italiana, ma vincono anche le piccole e medie imprese italiane, proprio perché sanno fare sostenibilità, quindi sanno fare innovazione di prodotto, sanno fare qualità, sanno fare gestione ambientale, sanno fare relazione con tutti i gruppi di interesse, con le comunità e i territori nei quali loro lavorano. Anzi, molto spesso le piccole e medie imprese sono il frutto culturale del territorio e del luogo dove sono nate e dove crescono. Quindi tutto questo è valore economico, è vantaggio competitivo per l'impresa italiana, in Italia e all'estero. Il punto vero è come misurare e come rendicontare all'esterno quello che si fa, quindi come, insieme alla parte economica, rendicontare anche la parte non economica, che però genera valore economico e soprattutto genera una nuova modalità di fare cultura d'impresa, ecco, fare responsabilità d'impresa. Per farci capire, cercando di rendere più semplice il linguaggio, che cosa sono esattamente gli indici, cioè come puoi raccontarci qualche esempio, per esempio, di quali sono queste indicazioni che voi date? Allora, queste indicazioni sono degli indicatori che sono misurati normalmente nei bilanci di sostenibilità delle grandi imprese italiane. Lo standard di riferimento è uno standard internazionale, si chiama Global Reporting Initiative, ed è uno standard che ha tutta una serie di elementi qualitativi e quantitativi che misurano la sostenibilità dell'impresa in campo economico, in campo ambientale, in campo sociale, in campo dei diritti umani, problemi nelle pratiche di lavoro, eccetera. Noi che cosa abbiamo fatto nel nostro gruppo in Confindustria? Abbiamo estrapolato gli indicatori che ci sembravano più significativi per rendicontare il lavoro che fanno le piccole e medie imprese e li abbiamo messi in una specie di griglia di bilancio di sostenibilità, in modo che le piccole e medie imprese italiane possano, utilizzando questa griglia, farsi un proprio bilancio di sostenibilità. È chiaro che però questa griglia è una griglia dove noi diamo delle indicazioni di cose da rendicontare, per esempio gli investimenti che le imprese fanno per la sicurezza dei propri lavoratori o per l'efficienza energetica, oppure gli investimenti che fanno nelle donazioni piuttosto che in progetti di sviluppo delle comunità territoriali. Dove però poi ciascuno interpreta, dice, una griglia, ciascuno l'interpreta, ciascuno soprattutto volontariamente sceglie quegli indicatori che misurano la sostenibilità e che sono più adatti al proprio mestiere, al proprio fare impresa. Da un lato... Le imprese sono diverse tra di loro e quindi ciascuna impresa deve anche scegliersi, come dire, la propria area di vantaggio competitivo nella sostenibilità. Nel quale impegnarsi. Da un lato quindi voi date indicazioni, segnate un percorso da seguire, dall'altro però è anche un modo per il gruppo di lavoro sulla CSR di Confindustria di diffondere sempre di più questa cultura, di spingere le aziende che il problema non se lo sono poste perché magari hanno paura di dover investire dei soldi o che è troppo complicato, di spingerli verso questa rendicontazione. Spingerli agevolandoli, facendo cultura, quello che faranno poi le confederazioni territoriali della Confindustria, spiegando e formando le piccole e medie imprese, e dall'altra parte però dare anche una risposta concreta, quindi dare come daremo poi nell'ulteriore lavoro che stiamo chiudendo col gruppo di lavoro, una specie di bilancio che si può facilmente utilizzare, in modo che le piccole e medie imprese non abbiano bisogno di rivolgersi a esterni o di investire chissà quali soldi, ma possano farselo da solo, perché si tratta di rendicontare delle cose, non ne siamo convinti e ne è convinta la piccola di Confindustria soprattutto, che ha sposato e sponsorizzato fortissimamente e adottato questo progetto, che le piccole e medie imprese fanno già tanto. Si tratta soltanto di dargli uno strumentino per poterlo misurare e farsi, insieme al bilancio d'esercizio che misura la parte economia finanziaria, il proprio bilancio di sostenibilità. Ecco, non è l'argomento della puntata e forse non c'è più tempo, però sappiamo che questo è molto importante anche nelle relazioni col mondo bancario, che si appresta a riconoscere, come dire, il valore di questa rendicontazione sociale e a premiarla. Certo, il mondo bancario già in parte chiede degli aspetti qualitativi del fare impresa alle piccole e medie imprese nel momento in cui si interfaccia con loro. Abbiamo peraltro un ragionamento aperto con l'ABI infatti, proprio sì, per portare avanti insieme, se possibile, a vantaggio delle piccole e medie imprese questa cultura della sostenibilità. Bene, grazie Marina Migliorato. Alla prossima, grazie della chiarezza con cui ci hai presentato gli indici di sostenibilità. A risentirci. Grazie, a presto. E noi continuiamo, ovviamente, restiamo nel tema della CSR e andiamo giù in Sicilia, perché piccole e medie imprese, giovani imprenditori sono temi rilevanti. Noi stiamo vivendo l'epopea del cambiamento del sistema economico verso i temi della sostenibilità e alcuni segnali importanti arrivano anche da luoghi che sono, come dire, storicamente un po' più difficili da coinvolgere su questi temi. Da Agrigento il premio Giovani per la responsabilità sociale di impresa 2010. 3.000 visitatori unici del sito www.progettog.it, 2.200 fan della pagina Facebook Progetto G, 500 presenze complessive ai 16 seminari organizzati, 4 poli universitari coinvolti, Enna, Palermo, Agrigento e Reggio Calabria, 115 studenti iscritti alla piattaforma e-learning, oltre 1.000 studenti universitari abbonati alla newsletter. I giovani puntano sull'imprenditoria socialmente responsabile. Ecco, noi Gaetano Lucchese, presidente dell'Associazione Laboratorio Telamone di Agrigento, che è come dire, l'organizzatore di questo concorso. È una bellissima storia, Caetano, perché coinvolge, abbiamo visto, un sacco di gente. Sono numeri che sono decisamente importanti per la realtà economica dell'Agrigentino, è così? Assolutamente sì. Infatti questo è il frutto, diciamo, dell'impegno nostro, che siamo un'associazione di giovani, siamo quasi tutti al di sotto dei 35 anni, e anche di altre associazioni, enti pubblici e privati, che ci hanno supportato in questa impresa volta a stimolare i giovani e a credere maggiormente in se stessi e nelle istituzioni. Ecco, ieri, proprio ieri, venerdì, avete chiuso, avete selezionato i vincitori, chiamiamoli così, anche se in questi casi a vincere sono tutti quelli che partecipano. Sì, ieri si è conclusa, diciamo, la scadenza dell'iscrizione, per la presentazione, sì, degli artefatti, che sono essenzialmente business idea e business plan. Ora in questa settimana il comitato scientifico andrà a valutare quali sono i gruppi di studenti più meritevoli del premio Giovani per la responsabilità sociale d'impresa 2010. E quindi tu hai avuto già l'opportunità di vedere qualcosa, di capire in quale area si stanno muovendo, quali sono gli argomenti affrontati, piuttosto che le ispirazioni vissute da questi giovani? Allora, gli argomenti affrontati un pochettino ricalcano le mode del momento, quindi sistemi di recupero energetico alternativo, che si va dal microeolico all'utilizzo di biomasse seguendo determinate filiere. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci di nuovo in studio con Gaetano Lucchese, presidente dell'associazione che ha organizzato il premio Giovani per la responsabilità sociale d'impresa di Agrigento. Presidente, quanti sono stati i gruppi che si sono iscritti a questo premio? Allora, alla fine si sono organizzati 8 gruppi di studenti universitari, quasi equamente divisi tra i 4 poli coinvolti, per un numero complessivo di una trentina di ragazzi che si sono cementati online e fisicamente di presenza per sviluppare queste loro idee. Ok, beh, dicevamo poco fa, prima dell'estate in diretta, che fra le proposte avanzate c'è ovviamente l'aspetto energetico, che è uno dei dominanti, e poi ce ne sono altri di settori toccati velocemente? Sì, l'e-commerce, però in una chiave di sostenibilità, che quindi prevedeva la creazione di reti e consorzi nell'area euromediterranea. Bene, quando è che, allora, adesso ci sarà il comitato scientifico che valuterà le varie ipotesi e business plan, poi ci sarà la premiazione, che è fissata, diciamolo, magari qualcuno da quelle parti, ad Agrigento? Assolutamente, la premiazione avverrà in occasione dell'evento di chiusura del 16 dicembre e si terrà al polo universitario della provincia di Agrigento. Inizia nel primo pomeriggio alle 3 del pomeriggio. Questa è la prima edizione, Presidente? Sì, questa è la prima edizione. Noi l'abbiamo lanciata lì anche per stimolare i nostri partner istituzionali come la Camera di Commercio e il MIUR a dare un seguito, perché ci siamo resi conto che i giovani hanno pochissima conoscenza di questo tema, che per noi è fondamentale. Responsabilità sociale d'impresa per noi rappresenta una leva per lo sviluppo sostenibile e integrato del territorio. Quindi questo è un appello che faccio a tutti gli imprenditori, soprattutto, ma anche alle istituzioni, di darci una mano a credere maggiormente in noi stessi e anche in loro. Noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto e siamo convintissimi che sarete capaci di andare avanti molto bene. Complimenti. Di questo vi ringraziamo tantissimo. Grazie a voi invece, siete indubbiamente una bella storia. Gaetano Lucchese, ci sentiamo presto, buon lavoro. Noi abbiamo un altro piccolo salto da fare, torniamo nel mondo multinazionale e vi proponiamo una figura tanto originale quanto evidentemente efficace. Cisco si è posta l'obiettivo di ridurre del 25% le proprie emissioni di gas serra entro il 2012. Si va dall'utilizzo di acqua riciclata per l'irrigazione dei giardini, al ricondizionamento, riutilizzo e smaltimento dei prodotti, fino all'uso di energia pulita per il 52% del proprio fabbisogno mondiale. Ciascuna sede di Cisco nel mondo ha un Green Ambassador che è il supervisore del piano. Il Green Ambassador, sulle cui esili spalle rispetto al progetto di Cisco poggia questo obiettivo, in Italia è Fabio Florio. Adesso non so se Fabio Florio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Non so quanto siano esili le sue spalle, ovviamente era una metafora rispetto a un bel programma, quello di Cisco, riduzioni importanti, e lei coordina tutto. Sì, magari vale la pena spiegare il ruolo di Green Ambassador in Cisco, che nasce proprio da quella decisione presa nel 2008 di ridurre del 25% l'impatto ambientale che Cisco ha nel mondo. È stato creato un eco board con diverse funzioni, quindi con tutte le funzioni aziendali, partendo ovviamente dai massimi livelli, create delle Green Task Force, e sono stati nominati dei Green Ambassador per ogni nazione nel mondo dove Cisco è presente, quindi praticamente in tutte le nazioni del mondo. E questo ruolo prevede di dare seguito a queste iniziative che vengono create centralmente dalla corporate, da un lato, e dall'altro di creare anche delle nuove iniziative a livello locale per stimolare sempre di più sia i dipendenti ma anche i clienti o i nostri partner a lanciare appunto delle iniziative green sostenibili che vadano a contribuire alla riduzione di impatto. Quindi tutto quello che succede in Cisco Italia, nel caso specifico di Fabio Florio, che riguarda i temi della sostenibilità, in qualche modo fa riferimento, è coordinato, supervisionato, comunque lei ne ha conoscenza. Certo, sì. E in Italia c'è un percorso di sostenibilità che va al di là degli obiettivi strategici del mondo? Ci sono iniziative che sì. Voi... Sì, ce ne sono diverse, diciamo in quattro aree. La prima area è legata a come noi impattiamo sulle operazioni, no? Faccio un esempio, il consumo di energia, noi acquistiamo energia solo... energie di tipo rinnovabile. E siamo molto attenti anche ovviamente a come consumiamo all'interno della nostra azienda. L'altro è legato alla costruzione dei prodotti, quello dipende meno dall'Italia ovviamente, ma noi possiamo comunque dare dei feedback alla corporate per cercare sempre più di costruire prodotti che siano più compatibili e che per esempio richiedano minore energia, minor consumo di energia. La terza area è quella di fornire soluzioni, architetture ai clienti in un'ottica sostenibile, perché spesso non solo i prodotti ma anche tutte le architetture che sostengono questi prodotti devono essere costruite in un'ottica sempre più sostenibile. E l'ultimo punto è proprio quello di lanciare anche localmente delle iniziative all'interno dell'azienda che nascano proprio dagli employee per far sì che ci sia una maggiore contribuzione locale anche sul territorio italiano, che magari ovviamente può essere molto diverso da quello di altre nazioni. In conclusione mi piace ricordare di Cisco, perché ne abbiamo già parlato in una precedente puntata di Fieri Botti, mi piace ricordare il vostro telepresenze, perché sì. Voi con questo sistema molto avanzato, molto sofisticato di teleconferenze, in realtà volutamente dico puntate alla diminuzione degli spostamenti internazionali, quindi anche che riguardano anche l'Italia, che vuol dire meno inquinamento, meno costi di trasferimento, e il risultato però è lo stesso, riunioni virtuali, ma riunioni a tutti gli effetti. Certo, questa è una soluzione che consente di fare meeting virtuali come se fossero dei meeting reali sostanzialmente. Noi ormai nella rete Cisco abbiamo installato più di 900 telepresenze e con queste siamo arrivati a risparmi enormi nell'ottica del billion dollar per intenderci, e abbiamo ridotto di tantissimo l'impatto ambientale, perché ovviamente le persone viaggiano molto di meno sia attraverso l'auto piuttosto che attraverso anche gli aerei, no? Utilizzando gli aerei, e questo ha ridotto tantissimo e sta contribuendo in maniera significativa con l'obiettivo della riduzione del 25%. Anche questo è Green Ambassador. A proposito, la carica cos'è? Elettiva oppure no? È un incarico che arriva dall'alto del management? Sì, tipicamente io riporto direttamente all'amministratore delegato, e tipicamente è l'amministratore delegato della specifica country che decide a chi dare questo compito. Io, seguendo anche altre aree che sono molto legate al discorso green, sono stato scelto per questa attività. Bello, come titolo è proprio bello, Green Ambassador. Complimenti Fabio Florio, buon lavoro, a risentirci. Grazie, un saluto a tutti. Per oggi è tutto, grazie ad Anita Panizza per la collaborazione in redazione e a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che il programma potete riascoltarlo sul sito di radio24.it. A risentirci.